Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti. Terza puntata dello speciale Smart City di dicembre, che stiamo dedicando a una delle tecnologie più promettenti tra quelle che si stanno affacciando nel mondo dell'energia, le celle a combustibile. Ricordo brevemente agli ascoltatori che una cella a combustibile può essere assimilata in buona sostanza a una pila oppure a una batteria elettrica, dove però i reagenti chimici, anziché essere impacchettati all'interno della batteria, vengono forniti dall'esterno. Per esempio le fuel cell, celle combustibili a idrogeno, usano idrogeno e ossigeno per generare elettricità producendo come scarto acqua. Ebbene, le più comuni fra questo tipo di celle a idrogeno sono le fuel cell a polimeri, di cui abbiamo parlato ieri. Oggi cercheremo invece di fare il punto su un'altra famiglia di tecnologie, un'altra famiglia di celle a combustibili dette SOFC, cioè celle a combustibile a ossidi solidi, e lo facciamo con l'aiuto di Stephen McPhail del laboratorio sviluppo processi chimici e termofluidodinamici per l'energia dell'Enea, che abbiamo già sentito nella prima puntata. Bentornato McPhail. Grazie, buonasera. Allora, fuel cell a ossidi solidi, prima di tutto qual è la specificità di questo tipo di cella combustibile rispetto per esempio a quelle di cui abbiamo parlato ieri, appunto le celle a polimeri? Beh, principalmente il fatto che sono appunto solidi, quindi è un mattoncino ceramico, e questo consente, la sua caratteristica è quindi che opera ad alta temperatura, parliamo dai 600 ai 900 gradi centigradi, che dà la possibilità di alimentare questa cella combustibile con combustibili più complessi dell'idrogeno, parliamo di metano, biogas e anche alcuni combustibili alcolici. Quindi da una parte idrogeno, tra l'altro deve essere molto puro, no? Perché altrimenti le celle a polimeri di solito altrimenti si rovinano, diciamo, se non gli si dà un combustibile molto puro. Invece qui abbiamo delle cellule che, diciamo, sono di bocca buona rispetto a quelle altre. Esattamente, no? Esattamente. Ecco. Sì. E al loro interno si svolgono anche processi più complessi per poter digerire questi idrocarburi o alcol che gli si danno in pasto. Esattamente, c'è una reazione anticipata alla reazione di ossidazione dove si genera l'elettricità, che è la reazione di reforming cosiddetta, che è una specie di condizionamento del combustibile che scinde il reagente chimico composto da idrocarburi vari. Gli spacca, gli spacca esattamente nei costituenti idrogeno e monossido di carbonio, quindi poi questi reagiscono per generare l'elettricità. Perfetto, quindi c'è un passaggio in più, perlomeno infatti sono celle tecnologicamente un po' più complicate queste rispetto alle precedenti. Ecco, quali sono le applicazioni per questa famiglia di tecnologie SOFC? Ma trattandosi di sistemi che operano ad alta temperatura, intanto la efficienza elettrica è maggiore, quindi si possono arrivare a efficienze elettriche del 60, ma anche oltre 65% di efficienza elettrica netta dal metano alimentato all'elettricità generata, ma anche a scale di potenze molto piccole, quindi parliamo di un kilowatt di potenza invece che le centrali elettriche da diversi gigawatt. Che sono quelle che normalmente permettono di raggiungere queste efficienze, no? Efficienze simili nella produzione di energia elettrica. Qui si può fare con un oggetto che è grande quanto un cartone del latte, per capirsi, anche meno. Ecco, e per che tipo di applicazioni però? Le applicazioni quindi sono essenzialmente di natura stazionaria, dove si mira soprattutto a una efficienza alta di conversione, ma non tanto a una risposta molto dinamica della cella. Per via dell'alta temperatura comunque c'è bisogno di un riscaldamento controllato per avviare la cella, e poi si cerca di mantenerla in operazione. Quindi le applicazioni sono o di generazione stazionaria, per esempio sostituendo la caldaia a casa per generare elettricità oltre che il calore per l'acqua, oppure anche dei cogeneratori a bordo di imbarcazioni o veicoli pesanti che hanno bisogno di significativa potenza a bordo, potenza elettrica. Ecco, mentre difficilmente celle di questo genere possono essere utilizzate per un'automobile privata, no? Perché impiegano un'ora, se non un giorno, addirittura in qualche caso anche solo per riscaldarsi, non sono capaci di reagire rapidamente a una domanda di potenza che varia continuamente. Esattamente, per questo si usano le celle polimeriche. Perfetto, perfetto. Oggi si vedono le prime applicazioni, i primi, chiamiamoli, progetti pilota. Alcuni vanno avanti da molti anni, ci sono installazioni di questo genere che sono lì da 5, 6, 7 anni, proprio perché se ne sta sperimentando anche la durata nel tempo. Quali sono i colli di bottiglia, i limiti che bisogna superare perché questa tecnologia veramente entri nelle case delle persone? Decisamente, come ha detto lei prima, è una tecnologia comunque complessa, quindi comunque parte da essere una sfida tecnologica a livello di abbinamento dei materiali e integrazione all'interno di un sistema. Ciò nonostante, si può individuare due sfide principali, una della quale è e che sono comunque correlate. Sicuramente la robustezza e la durabilità delle celle è una sfida importante. Deve migliorare questa roba, insomma. Esatto, che dura tanto nel tempo e anche è capace di sopportare l'utenza vera presso l'utente finale, quindi sopportando vari tipi di condizioni operative diverse, certo, uso improprio, chiaro. Esatto, questo però c'è un altro aspetto che è quello della produzione di scala, che consente di abbassare di ordini di grandezza il costo di ogni singolo prodotto. Però questo implica una scommessa da parte dell'industria e dell'investitore, certo, di mettere su una linea produttiva che richiede un investimento di milioni di euro a industria per generare poi i prodotti a un costo accessibile. Ecco, per capirsi, oggi si fanno addirittura in buona parte a mano, no, queste celle combustibili. Siamo in una fase altamente artigianale. Stiamo uscendo adesso dalla fase in cui era artigianale, una produzione proprio ad hoc artigianale. Ecco, e oggi quali sono i costi e quali potrebbero essere invece se venissero prodotti a milioni di unità queste celle a combustibile SOFC? Diciamo che ci sono due tipi di costi: il costo legato alla pila stessa, quindi il modulo elettrochimico, e il costo del sistema integrato, quindi anche dipende da quanto è complesso il sistema integrato. Possiamo dire che più o meno adesso il costo si aggira su un sistema integrato sulle 10-14 mila euro a kilowatt di potenza, che è molto. Bisogna arrivare a quanto perché diventi competitiva questa tecnologia? Beh, sono fatti diversi studi e 4.000 euro a kilowatt è il nostro target d'oro che ci consentirà di... diciamo, da lì in giù la partita si fa tutta seria dal punto di vista, diventa in discesa, lei dice. Esatto, però appunto quasi il 70% di questo abbassamento dei costi si può ottenere semplicemente aumentando la scala di produzione annuale di questi prodotti. Benissimo. E un buon esempio per questo è per esempio la ditta italiana Solid Power, che ha da poco ottenuto l'autorizzazione e l'investimento necessario per mettere in piedi una fabbrica da 50 megawatt all'anno di capacità produttiva, che abbatterà significativamente i costi dei loro sistemi. Attualmente hanno una fabbrica con una capacità di 2 megawatt all'anno e quindi questo verrà aumentato di 25 volte e consentirà ad abbattere significativamente i costi di ogni prodotto. Ecco, ma oggi il mercato globale delle celle a combustibile SOFC di cui stiamo parlando, quali sono i numeri più o meno? E quali invece sono le previsioni per il futuro di questo mercato? Citerei per primo il mercato giapponese, che ha già messo sul mercato e piazzato a casa delle persone più di 20.000 sistemi SOFC e un altri 120.000 a celle polimeriche, come i microcogeneratori, quindi che generano. Hanno incentivi molto forti in Giappone, bisogna dirlo onestamente, molto forti su questa cosa. Soprattutto hanno incentivi che sono mirati all'utente finale, quindi può acquistare queste tecnologie con un incentivo. Questo vuol dire che lì c'è da... E comunque sono numeri già significativi questi qua. Significativi. In Europa la cosa è ancora indietro, parliamo di 1.500 sistemi tuttora installati, però con una prospettiva di crescita significativa, quindi si pensa a poter arrivare nel 2025 a sostituire anche già almeno l'1%, che è tantissimo, di tutte le caldaie che vengono certo, all'anno, parliamo di 80 milioni di caldaie all'anno, quindi l'1% sono già 800 mila caldaie all'anno. E in Europa ci sono già più di 1500 sistemi cogenerativi installati, di cui quasi 800 a celle a ossidi di solidi. Per quanto riguarda l'Italia, mi preme soprattutto segnalare l'impianto che è stato inaugurato ora a novembre a Torino, a Collegno, in provincia di Torino, dove un impianto di trattamento di acque reflue comunali, che tratta le acque reflue di 180.000 cittadini della provincia, produce biogas che viene alimentato adesso a un sistema a cella a combustibile a ossidi solidi, producendo ora 50 kW di elettricità elettrica completamente pulita dal biogas, certo, ottenuto da questo trattamento, e che diventeranno 175 kW. E questo è il primo impianto del suo tipo in Europa. E va bene, grazie ancora una volta Stephen McPhail. Grazie mille dell'opportunità. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani per la quarta puntata dello speciale dedicato alle celle a combustibile. Buona serata.